Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 27 gennaio 2015, più pesce nei mari, in Italia cresce l'acquacoltura. Peschiamo meno pesce ma ne mangiamo di più, e questo grazie all'acquacoltura sostenibile che si sta diffondendo sempre di più nel nostro paese. La nuova acquacoltura, cioè l'allevamento di pesce nell'ambiente naturale in appositi impianti, ha permesso all'Italia di rispettare il regime delle quote di pescato introdotte dall'Europa nel 2011. A conquistare spazio è stata soprattutto la maricoltura, cioè la coltivazione in ambiente marino in impianti non lontano dalla costa. Fin qui la notizia del 27 gennaio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. L'obiettivo lanciato dalla commissaria UE alla pesca Maria Damanaki, che punta a ricostituire gli stock ittici entro il 2015, è ottimistico, ma l'acquacoltura è la strada giusta, lo dice Emilio Tibaldi, grande esperto della materia che insegna all'Università di Udine. La strada è giusta ed è la strada naturale, quella di puntare di più sull'acquacoltura, anche se sono abbastanza scettico che possa essere raggiunto il risultato entro una data così ravvicinata che il 2015, quando parliamo di cicli naturali biologici. E parlando di acquacoltura europea dobbiamo tener conto dei vincoli a cui deve sottostare, sono vincoli di ordine ambientale, quindi dobbiamo fare le cose bene se si vuole puntare sull'acquacoltura, e bisogna investire anche molto in ricerca, cosa che ultimamente l'Unione Europea ha fatto, ma fino a un certo punto. L'Europa certamente deve porsi all'avanguardia in questa direzione, nel senso deve raggiungere, non so se entro il 2015, questo obiettivo, ma salvaguardando l'ambiente e la redditività di questa, dell'attività dell'acquacoltura, e ipotizzare anche un travaso tra occupazione nella pesca e nell'acquacoltura è possibile. Ci sono delle forme di acquacoltura come la maricoltura che si prestano a questo travaso, e in parte già esistono dei numerosi esempi in Europa mediterranea, soprattutto di, diciamo così, maestranze travasate dal settore pesca al settore acquacoltura, o dove coesistono entrambi gli aspetti, ma sicuramente i fattori, gli aspetti ambientali, della sostenibilità ambientale saranno predominanti, ritengo. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.